poteva avere tutto ciò che voleva. Era la prima donna, ma purtroppo per lei. Oh no, no, no, no, no, no, lo voleva. Eva viveva, faceva tutto ciò che voleva per far contento Adamo, che si è detto fra noi. Oh no, no, no, no, no, no, lo voleva. Di Adamo tuttavia non ne parliamo, in fondo era soltanto un povero uomo, portato a ritenersi indispensabile dal fatto di sapere che era il primo. Eva rideva e, visto tutto ciò che accadeva, si mise a far la diva. E Adamo pensa un po', lui sì, sì, sì, sì, sì, che ci credeva. Eva rideva e, visto tutto ciò che accadeva, si mise a far la diva. E Adamo pensa un po', lui sì, sì, sì, sì, sì, che ci credeva.